Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. L'abate Faria era uno di quegli uomini la cui conversazione, come quella di chi ha molto sofferto, contiene numerosi insegnamenti e offre un interesse continuo. Ma non era egoista, e quell'infelice non parlava mai delle sue sventure. Dantès ascoltava ogni sua parola con ammirazione. Alcune corrispondevano alle idee che già aveva e alle conoscenze che competevano alla sua condizione di marinaio. Altre riguardavano cose a lui sconosciute e, come le aurore boreali che rischiarano i navigatori nelle latitudini australi, mostravano al giovane paesi e orizzonti nuovi, illuminati da luci fantastiche. Dantès comprese la felicità che doveva provare un uomo intelligente a seguire quella mente elevata sulle vette morali, filosofiche e sociali su cui d'abitudine spaziava. «Voi dovreste insegnarmi un poco di quanto sapete», disse Dantès, «se non altro per non annoiarvi con me. La solitudine mi sembra preferibile a un compagno senza educazione e senza cultura come me. Se mi accontentate, vi prometto di non parlarvi più di fuga». Da quella sera, i due prigionieri stabilirono un piano di educazione che cominciò ad essere messo in pratica il giorno dopo. Dantès aveva una memoria prodigiosa, una estrema facilità di comprensione. La predisposizione della sua mente per la matematica lo rendeva atto a comprendere ogni cosa per mezzo del calcolo, mentre la poesia del marinaio correggeva tutto quanto poteva esservi di troppo materiale nella dimostrazione ridotta all'aridità delle cifre e alla precisione delle linee. Del resto, egli conosceva già l'italiano e un poco di arabo, che aveva imparato nei suoi viaggi in Oriente. Con l'aiuto di queste due lingue, comprese subito il meccanismo di tutte le altre e in capo a 6 mesi iniziò a parlare lo spagnolo, l'inglese e il tedesco. Le giornate per lui passavano rapide e istruttive. In capo ad un anno era già un altro uomo. Quanto all'abate Faria, Dantès notava che, malgrado la distrazione che la sua presenza aveva portato alla sua prigionia, diventava ogni giorno più triste. Un pensiero incessante e continuo sembrava occupare la sua mente. Cadeva in profonde meditazioni. Sospirava involontariamente. Tutto a un tratto si alzava, incrociava le braccia e passeggiava taciturno nella cella. Un giorno si fermò improvvisamente nel mezzo di uno dei giri 100 volte ripetuti che descriveva nella sua cella ed esclamò: «Ah, se non ci fossero sentinelle!» «Non ci saranno sentinelle quando non le vorrete», disse Dantès, che aveva seguito il suo pensiero attraverso la scatola cranica come attraverso un cristallo. «Ah, l'omicidio mi ripugna!» «Eppure questo omicidio, se fosse commesso, sarebbe per istinto di conservazione, per un senso di difesa personale!» «Non importa, non potrei!» Passarono 3 mesi. «Siete forte?» chiese un giorno l'abate a Dantès. Dantès, senza rispondere, prese lo scalpello, lo piegò a ferro di cavallo e lo raddrizzò. «Vi impegnereste a non uccidere la sentinella che in caso di estrema necessità?» «Sì, sul mio onore!» «Allora», disse Faria, «potremo eseguire il nostro progetto». L'abate mostrò a Dantès un disegno che aveva tracciato. Era la pianta della sua cella, di quella di Dantès e del cunicolo che le univa. In mezzo a questo cunicolo c'era un condotto sotterraneo uguale a quelli delle miniere. Questo condotto avrebbe portato i due prigionieri sotto la galleria dove passeggiava la sentinella. Una volta giunti là, avrebbero scavato di nuovo. Avrebbero tolta una delle pietre quadrate che formano il pavimento della galleria. La pietra, così, al momento giusto, l'avrebbero fatta cadere sotto il soldato che sarebbe sprofondato nel buco. Dantès si sarebbe precipitato sopra di lui nel momento in cui, del tutto stordito per la caduta, non avrebbe potuto difendersi. Lo avrebbe legato, gli avrebbe tappato la bocca E allora tutti e due, passando da una finestra di questa galleria, sarebbero discesi lungo la muraglia esterna con l'aiuto di una scala di corda e si sarebbero salvati. Dantes batté le mani e i suoi occhi sfavillarono di gioia. Quel piano era così semplice che doveva riuscire. Trascorse più di un anno in questo lavoro eseguito con uno scalpello, un coltello e una leva di legno come strumenti. Durante questo anno e mentre lavoravano, Faria continuò a distruire Dantes. L'abate, uomo di mondo e del gran mondo, aveva inoltre nelle sue maniere una specie di maestà malinconica da cui Dantes, grazie allo spirito di emulazione di cui la natura lo aveva dotato, seppe trarre quell'elegante tratto che gli mancava e quei modi aristocratici che generalmente si acquistano solo frequentando le classi elevate o conversando con uomini superiori. Di lì a 15 mesi il buco era finito, lo scavo sotto la galleria fatto. Si sentiva passare e ripassare la sentinella e i due operai, obbligati ad aspettare una notte scura e senza luna per rendere ancora più sicura la loro evasione, non avevano che un timore, che il pavimento sprofondasse prima del tempo sotto i piedi del soldato. Si ovviò a questo inconveniente sistemando come puntello una specie di piccola trave che avevano trovato scavando. Dantes era occupato a sistemarla quando di colpo sentì Faria, rimasto nella cella del giovane a preparare dei cavicchi per fissare la scala di corda, che lo chiamava con tono disperato. Dantes rientrò velocemente e vide l'abate in piedi in mezzo alla stanza, pallido, con il sudore alla fronte e le mani contratte. «Oh mio Dio!» gridò Dantes. «Che c'è? Che cosa avete?» «Sono perduto», disse l'abate. «Ascoltatemi, mi ha preso un male terribile, forse mortale. L'attacco è arrivato, lo sento. Correte subito nella mia cella, togliete un piede del letto. Questo piede è cavo. E vi troverete dentro un piccolo flacone di cristallo pieno per metà di un liquido rosso. Portatemelo. O piuttosto... No, potrei essere sorpreso qui. Aiutatemi a rientrare nella mia cella finché mi resta un po' di forza. Chissà che cosa può accadere e quanto tempo durerà l'attacco». Dantes, senza perdere la testa, benché la disgrazia che lo colpiva fosse immensa, discese nel cunicolo, trascinò l'infelice compagno, lo condusse con pena infinita fino all'estremità opposta e si ritrovò nella cella dell'abate, che coricò sul letto. «Grazie», disse l'abate tremando in tutte le membra come se uscisse dall'acqua ghiacciata. «Ecco il male che aumenta. Sto per cadere in catalessi. Quando mi vedrete immobile, freddo e morto, per così dire, solo allora sentitemi bene, apritemi i denti con il coltello, fatemi colare in bocca 8 o 10 gocce di quel liquore e forse mi riavrò». «Forse!» gridò addolorato Dantes. «A me, A me, gridò Faria. Io muoio. L'attacco fu così rapido e violento che il disgraziato prigioniero non poté nemmeno finire la parola. Una nube gli passò sulla fronte, veloce e buia come le tempeste del mare. La crisi gli dilatò gli occhi, contorse la bocca, imporporò le guance, si agitò, schiumò, ruggì. Tutto ciò durò 2 ore, poi, più inerte di un masso, più pallido e più freddo del marmo, più avvizzito di una rosa calpestata, Faria cadde. Si contorse ancora in un'ultima convulsione e divenne livido. Edmond aspettò che quella morte apparente gli invadesse il corpo e lo gelasse fino al cuore. Allora prese il coltello, introdusse la lama fra i denti, disserrò con pena infinita le mascelle rigide, contò una dopo l'altra 10 gocce del liquore rosso e aspettò. Passò un'ora senza che il vecchio facesse il minimo movimento. Dantès temeva di aver aspettato troppo e lo guardava con le mani affondate nei capelli. Finalmente un leggero colorito gli apparve sulle guance. I suoi occhi, costantemente rimasti aperti e attoniti, ripresero il solito sguardo. Un debole sospiro gli sfuggì dalla bocca. Fece un piccolo movimento. «Coraggio! Le forze vi ritorneranno!» disse Dantès sedendosi vicino al letto di Faria e prendendogli le mani. L'abate scosse la testa e disse: «Ah, amico mio, non vi illudete. La crisi passata mi ha condannato a un carcere perpetuo. Io non nuoterò più. Questo braccio è paralizzato, non per un giorno, ma per sempre. Sollevatelo voi stesso e sentite quanto è pesante». Il giovane sollevò il braccio, che ricadde insensibile. «Va bene, allora resterò anch'io!» Estendendo con solennità una mano sul vecchio, disse: «Giuro di non lasciarvi, che alla vostra morte!» «Accetto», disse il malato. «Grazie. Forse sarete ricompensato per questa devozione così disinteressata». Thank you. Quando l'indomani mattina Dantès rientrò nella cella del suo compagno di prigionia, trovò Faria seduto, con il viso calmo. Egli mostrò a Dantès una carta senza dire una parola. «Cos'è?» domandò questi. «Questa carta, amico mio», disse Faria, «è il mio tesoro, la cui metà da questo momento vi appartiene. Nessuno ha voluto ascoltarmi né credermi, perché mi giudicavano pazzo, ma voi, che dovete sapere che non lo sono, ascoltatemi e poi credetemi se volete. Voi sapete, continuò l'abate, che io ero il segretario, il confidente, l'amico del cardinale Spada, l'ultimo dei principi di questo nome. La casa del cardinale non aveva segreti per me. Spesso avevo visto il monsignore intento a consultare dei libri antichi e sfogliare avidamente i manoscritti polverosi di famiglia. Un giorno, che gli rimproverai le sue inutili veglie e l'abbattimento che le seguiva, egli mi guardò sorridendo amaramente e mi aprì un libro di storia della città di Roma. Al 20° capitolo della vita di Papa Alessandro VI si leggevano le seguenti parole, che non ho mai potuto dimenticare. Le grandi guerre della Romagna erano terminate. Cesare Borgia, che aveva ultimato la sua conquista, aveva bisogno di denaro per comprare l'Italia intera. Anche il Papa, suo padre, aveva bisogno di denaro per farla finita con Luigi XII, re di Francia. Si trattava dunque di fare una buona speculazione, cosa difficile in quella povera Italia stremata. Sua Santità ebbe un'idea. Decise di nominare due nuovi cardinali. Vennero prescelti due grandi personaggi di Roma, soprattutto molto ricchi, Giovanni Rospigliosi e Cesare Spada, entrambi disposti a pagare lautamente la sacra porpora cardinalizia e a mettere in vendita i loro beni che, in caso di una loro morte improvvisa, sarebbero passati alla Chiesa, a meno che non fosse occorso l'incidente di qualche testamento imprevisto. La seconda parte del progetto consisteva nell'accelerare il trapasso improvviso di costoro. Un giorno, Alessandro VI, insieme a Cesare Borgia, invitò a pranzo i due nuovi cardinali. La mensa fu allestita in una vigna di proprietà del Papa presso San Pietro in Vincoli, continuò l'abate. Deliziosa abitazione, ben nota per fama ai cardinali. Rospigliosi, estasiato per la sua nuova dignità, vi andò con lo stomaco pronto e con la più bella cera. Spada, invece, uomo prudente e che amava unicamente suo nipote, un giovane capitano di belle speranze, prese carta, penna e fece testamento. Poi fece dire al nipote di attenderlo nei dintorni della vigna, ma a quanto pare il servo non lo trovò. Spada, conosceva le regole degli inviti da quando il cristianesimo, eminentemente civilizzatore, aveva apportato i suoi progressi in Roma, non era più un centurione che veniva da parte del tiranno a dirvi «Cesare vuole che tu muoia», ma era un legato a latere che veniva a dirvi sorridendo da parte del Papa «Sua Santità desidera che pranziate con lui». Spada partì verso le due per la vigna di San Pietro in Vincoli. Il Papa lo attendeva là. La prima figura che colpì gli occhi dello Spada fu suo nipote, tutto azzimato e gentile, al quale Cesare Borgia prodigava le sue carezze. Spada impallidì e Cesare, che gli lanciò uno sguardo pieno di ironia, lasciò capire che aveva previsto tutto e che la trappola era stata posta con cura. Pranzarono. Spada poté rivolgere al nipote una sola domanda. «Avete ricevuto il mio messaggio?» Il nipote rispose di no, però comprese perfettamente il senso di quella domanda. Era troppo tardi. Aveva appena bevuto un bicchiere di ottimo vino messo da parte per lui dal cantiniere del Papa. Spada vide nel medesimo istante portare in tavola un'altra bottiglia, dalla quale si versò da bere. Un'ora dopo, un medico li dichiarava entrambi avvelenati da funghi velenosi. Spada morì all'uscita della vigna. Il nipote si spense sulla porta di casa sua, dopo aver fatto un segno che sua moglie non comprese. Subito Cesare e il Papa si affrettarono a impossessarsi dell'eredità con il pretesto di cercare le carte dei defunti. Ma l'eredità consisteva in un pezzo di carta sul quale Spada aveva scritto: «Lascio al mio amatissimo nipote i miei scrigni e i miei libri, tra i quali il mio bel breviario dagli angoli d'oro, desiderando che egli conservi per sempre questo ricordo del suo affezionato zio». Gli eredi cercarono dappertutto, ammirarono il breviario, fecero man bassa nei mobili e si stupirono che Spada, l'uomo ricco, fosse in realtà il più miserabile degli zii. Di tesori nemmeno l'ombra, tranne i tesori di scienza chiusi nella biblioteca e nei laboratori. Dopo la morte del Papa e l'esilio di suo figlio, tutti si aspettavano di vedere la famiglia Spada riprendere il tenore di vita dei tempi del cardinale, ma no, non fu così. E veniamo all'ultimo della famiglia, quello del quale fui segretario, il conte Spada. Lo avevo sentito spesso lamentarsi della sproporzione tra il suo patrimonio e il suo rango, e gli avevo consigliato di investire il poco denaro che gli rimaneva in una rendita vitalizia. Egli seguì il mio consiglio e raddoppiò le sue rendite. Poi il mio padrone morì e lasciò a me, a condizione che gli stendessi una storia della sua casa, la biblioteca contenente 5.000 volumi e il famoso breviario con un migliaio di scudi romani che possedeva in denaro contante. Nel 1807, un mese prima del mio arresto, 15 giorni dopo la morte del conte Spada, il 25 dicembre, stavo sfogliando per l'ennesima volta quelle carte che cercavo di riordinare quando, affaticato da quella ricerca assidua, un po' indisposto per un pasto pesante che avevo fatto, posai la testa sulle mani e mi addormentai. Erano le 3 del pomeriggio. Mi risvegliai che la pendola batteva le 6. Alzai la testa e mi trovai nella più profonda oscurità. Allora afferrai con una mano una lampada pronta all'uso e con l'altra, in mancanza di zolfanelli nella scatola, cercai un pezzo di carta che intendevo accendere a un ultimo resto di fiamma ancora danzante nel focolare. Ma temendo di prendere al buio una carta preziosa invece di una inutile, esitai, quando mi ricordai di aver visto nel famoso breviario che era posato sul tavolo di fianco a me un vecchio foglio di carta ingiallito che sembrava fosse servito da segnalibro e che aveva attraversato i secoli, conservato al suo posto dalla venerazione degli eredi. Cercai a tastoni quel foglio inutile, lo trovai, lo arrotolai e avvicinandolo alla fiamma morente lo accesi. Ma ecco che sotto le mie dita, come per magia, mano a mano che il fuoco saliva, vedevo dei caratteri giallognoli uscire dal foglio bianco che stringevo fra le dita. Allora il terrore mi prese. Serrando il foglio tra le mani, soffocai la fiamma, accesi direttamente la lampada con la brace, riaprii con indicibile emozione la lettera spiegazzata e constatai che quelle parole, leggibili solo a contatto con il calore, erano scritte con un misterioso inchiostro simpatico. Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Regia Anna Antonelli. Riduzione Chiara Nicoletti. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it